ad alta voce. Pier Francesco Favino legge Jack London. Nel reparto idioti. Io non sono un idiota, sono l'assistente. Non so cosa farebbero Miss Jones e Miss Kelsey senza di me. Ci sono 55 idioti gravi in questo reparto e come potrebbero dar da mangiare a tutti se non ci fossi io? Mi piace dare da mangiare agli idioti. Non combinano guai, non possono. Quasi sempre hanno qualcosa che non funziona alle braccia o alle gambe, non sanno parlare. Sono veramente idioti. Io so camminare, parlare e fare certe cose. Bisogna fare attenzione con gli idioti e non dargli da mangiare troppo in fretta, altrimenti soffocano. Miss Jones dice che sono un esperto. Quando arriva un'infermiera nuova le insegno io come si fa. È buffo guardare un'infermiera nuova quando dà loro da mangiare. Va così piano, si mette talmente tanta cura che arriva l'ora di cena e ancora li sta ingozzando con la prima colazione. Poi le faccio vedere io perché sono un esperto, lo dice anche il dottor Dalrymple, e queste cose lui dovrebbe saperle. Un idiota può mangiare due volte più in fretta se sai come farglielo fare. Mi chiamo Tom, ho 28 anni. In clinica mi conoscono tutti, questa è una clinica, sapete. Appartiene allo Stato della California, va avanti grazie alla politica. Lo so, è molto tempo che ci vivo, tutti si fidano di me. Quando non sono occupato con gli idioti vado in giro a sbrigare faccende. Mi piacciono gli idioti, mi fanno pensare a quanto sono fortunato a non essere un idiota. Mi piace qui dentro, fuori no, lo so, sono stato un po' in giro e sono fuggito, sono stato adottato. Per la casa e per il reparto idioti io sono il migliore, non sembro un idiota, no? Basta guardarmi per vedere le differenze. Io sono un assistente, un esperto assistente. Niente male per un debole. Debole? Sì. Debole di mente. Credevo che lo sapeste, siamo tutti deboli qui dentro. Ma io non sono un debole grave. Il dottor Dalrymple dice che sono troppo dritto per stare nella casa, ma io non lo do a vedere. È un posto niente male, io non ho attacchi come un sacco di altri idioti. Vedete quella casa lassù tra gli alberi? Gli epilettici non gravi vivono tutti lì dentro per conto loro. Sono isolati perché non sono dei deboli quartieri. La chiamano casa club e dicono che stanno bene come quelli di fuori, solo che sono malati. Non mi piacciono quando mi vedono, se non sono troppo occupati con i loro attacchi si mettono a ridere. Ma non me ne importa, io non devo aver paura di cadere e rompermi la testa. Certe volte si mettono a correre in cerchio, cercando un posto per sedersi in fretta, ma non ci riescono. Gli epilettici gravi sono disgustosi, quelli meno gravi si danno delle arie. Sono contento di non essere un epi. Non sono nulla di speciale, dicono un sacco di paroloni, questo è tutto. Miss Kelsey dice che parlo troppo. Ma io dico cose sensate, che è più di quanto fanno gli altri deboli. Il dottor Dalrymple dice che ho il dono della lingua. Lo so, dovreste sentirmi quando parlo da solo o quando c'è un idiota che mi ascolta. Qualche volta penso che mi piacerebbe essere un politico, solo che è troppo complicato, sono tutti dei gran parlatori, è così che si tengono al posto. Nessuno è pazzo in questo ospedale, sono solo deboli di mente. Voglio raccontarvi una cosa divertente. Ci sono una dozzina di ragazze, non gravi, che preparano i tavoli nella grande sala da pranzo. Certe volte, quando finiscono prima, si siedono tutte in cerchio sulle sedie e chiacchierano. Io mi metto dietro la porta e ascolto. E quasi muoio per trattenere le risate. Sapete di che parlano? Le cose vanno così. Per un pezzo non dicono niente e poi una dice: «Meno male che non sono una debole di me». E tutte le altre annuiscono con l'aria soddisfatta, e poi nessuna dice niente per un po'. Dopodiché la ragazza seduta vicino dice: «Meno male che non sono debole di mente», e loro annuiscono di nuovo. E continuano così, senza dire mai altro. Quelle sì che sono vere deboli, no? Giudicate voi, io non sono quel genere di debole. Meno male. A volte penso di non essere affatto un debole. Sono nella banda e leggo la musica. La banda è fatta tutta di deboli tranne il direttore. Lui è pazzo, lo sappiamo tutti. Ma non ne parliamo mai, eccetto che tra noi. Si occupa di politica anche. E non vogliamo che perda il posto. Io sono il tamburo. Non possono fare a meno di me questo ospedale. Una volta sono stato male, quindi lo so. È un miracolo che il reparto idioti non sia andato in rovina mentre ero in infermeria. Potrei uscire se volessi. Non sono così debole come qualcuno potrebbe pensare, ma io non lo do a vedere. Sto troppo bene. E poi andrebbe tutto a rotoli se me ne andassi. Ho paura che una volta o l'altra scoprano che non sono un debole e mi spediscano nel mondo a guadagnarmi da vivere. Conosco il mondo e non mi piace. La casa è un buon posto per me. Vedete le smorfie che faccio a volte? Non posso farci niente. Posso esagerare però, ma non sono cattivo. Mi guardo allo specchio, la mia bocca è buffa, lo so, mi pende e ho dei brutti denti. Potete sempre riconoscere un debole guardandogli bocca e denti, ma questo non dimostra che io sia un debole, sono solo fortunato perché lo posso sembrare. So un sacco di cose, se vi dicessi tutto quello che so vi meravigliereste, ma quando non voglio sapere o quando vogliono farmi fare qualcosa che non mi va, lascio penzolare la bocca, rido e faccio strani versi. Guardo i rumori strani che fanno i malati gravi e riesco a ingannare chiunque, e ne conosco di suoni strani. Mi scherzi, l'altro giorno mi ha chiamato stupido, era molto arrabbiata con me, l'ho fatta proprio scema. Una volta mi scherzi mi ha chiesto perché non scrivo un libro sui deboli. Le stavo dicendo cosa non andava con il piccolo Albert. È un idiota, sapete, io riesco sempre a capire dal modo in cui gira l'occhio sinistro cosa c'è che non va. Così lo stavo spiegando a Miss Kelsey e siccome lei non lo sapeva si è arrabbiata da matti. Ma un giorno, chissà, lo scriverò questo libro. Solo che ci vuole troppa fatica. E poi faccio prima parlare. Sapete cos'è un micro? Sono quelli che hanno la testa non più grande del polso. Di solito sono idioti e vivono a lungo. Gli idro invece non sono idioti, hanno le teste grandi e sono più furbi, ma non crescono mai, muoiono sempre, non posso guardarne uno senza pensare che morirà. Certe volte quando mi sento pigro o l'infermiera si arrabbia con me vorrei esserne un idiota con niente da fare e qualcuno che mi dà da mangiare, ma mi sa che preferisco parlare ed essere quello che sono. Ieri il dottor Dalrymple mi ha detto: Tom, non so proprio cosa farei senza di te. E lui è uno che le cose le sa, visto che è da 2 anni il capo di un migliaio di deboli. Prima c'era il dottor Whatcomb, li mandano qui. Sapete, è una questione di politica, ho visto un sacco di dottori da quando sto qui. Stavo qui prima di tutti loro, sto in questo ospedale da 25 anni. No, non ho di che lamentarmi, l'ospedale non potrebbe funzionare meglio. È una pacchia essere un debole di quelli non gravi. Basta guardare il dottor Dalrymple. È pieno di preoccupazioni. Il suo posto dipende dalla politica. Certo che noi che siamo gravi, non gravi, discutiamo di politica. Sappiamo tutto su questo argomento. È un peccato. Un ospedale come questo non dovrebbe andare avanti con la politica. Prendete il dottor Dalrymple. Sta qui da 2 anni e ha imparato un sacco. Poi entra in ballo la politica, lo cacciano via e mandano un dottore nuovo che di idioti non sa niente. Ho conosciuto migliaia di infermiere da quando sono qui. Qualcuno è simpatico, ma vanno e vengono. La maggior parte delle ragazze si sposa. Qualche volta penso che mi piacerebbe sposarmi. Ne ho parlato una volta con il dottor Whatcomb, mi ha detto che gli dispiaceva molto, ma i deboli non si possono sposare. Una volta mi sono innamorato, era un'infermiera. Il nome non ve lo dico. Aveva gli occhi azzurri i capelli biondi e una voce gentile. E le piacevo, e me lo disse, e mi diceva sempre di fare il bravo, e io lo facevo, anche fino a dopo, poi sono scappato. Capite? Se ne andò e si sposò, senza dirmi niente. Credo che essere sposati non sia così meraviglioso come dicono. Il dottor Anglin e sua moglie litigavano sempre, li ho visti, una volta lei lo ha chiamato debole. Ora, nessuno ha il diritto di chiamare debole uno che non lo è. Il dottor Anglin si arrabbiò da matti quando lei lo chiamò così, ma non durò molto. La politica lo sbatté fuori, arrivò il dottor Mandeville, lui non era sposato. L'ho sentito una volta parlare con l'ingegnere, l'ingegnere e la moglie litigavano come cane e gatto. E quel giorno il dottor Mandeville gli disse che era dannatamente felice di non essere legato a una sottana. Una sottana è una gonna. Sapevo cosa intendeva dire, anche se sono un debole, ma non lo so vedere. Si possono sentire un mucchio di cose, basta non farlo capire. Ho visto un sacco di cose nella mia vita. Una volta fui adottato, feci 60 km in treno per andare a stare con un uomo che si chiamava Peter Bopp e sua moglie. Avevano un ranch. Il dottor Anglin diceva che ero forte e intelligente, e anche io lo dicevo, questo perché volevo essere adottato. E Peter Bopp diceva che mi avrebbe dato una buona casa, e gli avvocati prepararono le carte, ma decisi subito che un ranch non era posto per me. La signora Bopp era spaventata a morte e non mi faceva dormire in casa. Accomodarono alla meglio la legnaia, mi fecero dormire là dentro. Dovevo alzarmi alle 4 e dare da mangiare ai cavalli, mungere le mucche e portare il latte ai vicini. Le chiamavano faccende, ma mi tenevano occupato tutto il giorno. Tagliavo la legna, pulivo il pollaio, toglievo le erbacce dall'orto e facevo quasi tutto. Non mi divertivo mai, non avevo tempo. Lasciate che vi dica una cosa, preferisco dare minestra e latte ai deboli che mungere le mucche quando la terra è ghiacciata. La signora Bopp aveva paura di farmi giocare con i suoi figli. E anche io avevo paura, mi facevano le boccacce quando nessuno guardava e mi chiamavano scemo. Tutti mi chiamavano Tom lo scemo. E i ragazzi di vicinato mi tiravano le pietre. Non succede mai niente del genere qui nella casa. I deboli sono più educati. La signora Bopp mi dava sempre pizzicotti, mi tirava i capelli quando secondo lei ero troppo lento, e allora io mi mettevo a fare soltanto strani rumori e andavo ancora più lento. Diceva che una volta o l'altra sarei stato la sua morte. Non coprì il vecchio pozzo del pascolo con le tavole e il nuovo vitello ci cadde dentro e affogò. Allora Peter Bopp disse che mi avrebbe dato una bella lezione e lo fece. Prese una cinghia e si scatenò. Fu tremendo. Non ero mai stato picchiato in tutta la mia vita. Non fanno queste cose nella casa. Ed è per questo che dico che la casa è il posto che fa per me. Conosco la legge, sapevo che non aveva il diritto di darmele con la cinghia. Questo significava essere crudeli. E le carte dell'adozione dicevano che lui non doveva essere crudele. Non dissi niente. Aspettai, e che vi dimostra che razza di debole sono. Aspettai a lungo e diventai più lento e facevo i versi più strani, ma lui non mi rispediva alla casa, che era quello che volevo. Poi un giorno, era il primo del mese, la signora Brown mi diede $3 che servivano a pagare il conto del latte di Peter Bopp. Questo successe la mattina. Quando portavo il latte, la sera dovevo riportare la ricevuta, ma non lo feci. Andai alla stazione, comprai un biglietto come fossi uno qualsiasi e con il treno tornai alla casa. Ecco che razza di debole sono io. Il dottor Anglin non c'era più e al suo posto c'era il dottor Mandeville. Andai dritto nel suo ufficio, lui non mi conosceva. Salve, disse, oggi non è giorno di visita. Non sono un visitatore, dissi io. Sono Tom, sono di qua. Allora lui fece un fischio e si mostrò sorpreso. Gli raccontai tutto, gli mostrai i segni delle frustate e lui si infuriò e disse che ci avrebbe pensato lui a sistemare il signor Bopp. E forse voi penserete che alcuni dei piccoli idioti non erano contenti di vedermi. Andai dritto nel reparto, c'era una nuova infermiera che stava dando da mangiare al piccolo Albert. Aspetta, dissi, non si fa così, non vedi come gira l'occhio sinistro, ti faccio vedere io come si fa. Forse pensò che ero un nuovo dottore perché mi dette subito il succhiaio e mi sa che per il piccolo Albert quello è stato il primo pasto decente da quando me ne ero andato. Gli idioti non sono cattivi, basta capirli. Una volta ho sentito Miss Jones dire a Miss Kelsey che io avevo un dono straordinario nel trattare gli idioti. Un giorno, chissà, andrò a parlare col dottor Dalrymple e gli chiederò di darmi una dichiarazione che non sono un debole. Poi gli chiederò di farmi davvero assistente del reparto idioti, con $40 al mese più vitto e alloggio. E poi sposerò Miss Jones e vivrò qui. E se lei non mi vuole, sposerò Miss Kelsey o qualche altra infermiera. Ce ne sono un sacco che vogliono sposarsi e non me ne importerà niente se mia moglie si arrabbia e mi chiama debole. Che serve arrabbiarsi? E io credo che quando uno è abituato ad avere a che fare con gli idioti, una moglie non può essere molto peggio. Di quando sono scappato. A me non era mai venuto in mente. Sono stati Charlie e Joey a convincermi. Sono happy, sapete, ma non gravi. Ero stato lassù a portare un messaggio al dottor Wilson e stavo tornando al reparto idioti quando ho visto Charlie e Joey che si nascondevano dietro un angolo della palestra e mi facevano i segni. Mi sono avvicinato. Ciao, disse Joey. Come stanno gli idioti? Bene, risposi. Hai avuto attacchi di recente? Questo lo mandò in bestia e me ne stavo andando quando Joey disse: stiamo scappando, vieni anche tu. A fare che? Andiamo sulla cima della montagna, disse Joey. A trovare una miniera d'oro, fece Charlie. Non abbiamo più attacchi, siamo guariti. Va bene, dissi io, e sgusciammo dal retro della palestra in mezzo agli alberi. Avevamo camminato circa 10 minuti quando mi fermai. Che c'è? Chiese Joey. Aspetta, dissi io, devo tornare indietro. Per fare che? Disse Joey. E io, a prendere piccolo Albert. Dissero che non potevo, si arrabbiarono, ma non me ne importava. Sapevo che avrebbero aspettato. Capite, sto qui da 25 anni, conosco i sentieri che portano alle montagne. Charlie e Joey non li conoscevano, ecco perché volevano che andassi con loro. Così tornai indietro e presi il piccolo Albert. Non sa camminare, né parlare, né fare niente, a parte sbavare, e dovetti portarlo in braccio. Oltrepassammo l'ultimo campo di fieno, che era il posto più lontano dove ero mai andato. Poi gli alberi e i cespugli si fecero molto fitti e, non trovando nessun altro sentiero, seguimmo il cammino delle mucche giù fino a un profondo ruscello e strisciammo attraverso la siepe che segna dove finisce il territorio della casa. Ci arrampicammo sulla grande collina dall'altra parte del ruscello. C'erano solo alberi enormi e niente cespugli, ma era così ripido e scivoloso per le foglie morte che potevamo a stento camminare. Cammina, cammina, arrivammo in un posto veramente brutto. Era largo poco più di un metro, se scivolavi precipitavi di 300 metri, o forse una trentina. In ogni modo non si precipitava, si scivolava soltanto. Io lo attraversai per primo, con Albert in braccio, poi venne Joey. Charlie invece a metà strada ebbe paura e si sedette. «Sto per avere un attacco!» disse. «Non è vero!» disse Joey. «Se fosse vero non saresti seduto, gli attacchi ce li hai sempre in piedi!» «Ma questo è uno diverso!» disse Charlie, cominciando a piangere. Si mise a tremare forte, ma proprio perché voleva, non riusciva a farsi venire nemmeno l'ombra di un attacco. Joey si arrabbiò e disse parole orribili, ma non servì a niente. Allora parlai io a Charlie, piano e gentilmente, così vanno trattati i deboli. Se t'arrabbi loro fanno peggio, lo so, anch'io sono fatto così. Per questo ero stato quasi la morte della signora Bopp, l'ho fatta diventare pazza. Si stava facendo tardi e sapevo che dovevamo trovare la strada, così dissi a Joey: su, pianta al distillare, tieni Albert, io vado indietro a prenderlo. E così feci, ma lui era talmente impaurito e confuso che mentre lo aiutavo camminava a quattro zampe. Quando arrivammo dall'altra parte e ripresi Albert in braccio, sentii qualcuno ridere e guardai di sotto. C'erano un uomo e una donna a cavallo che ci osservavano. Lui aveva un fucile sulla sella ed era lei che rideva. «Che diavolo è?» urlò Joey spaventato. «Qualcuno che ci cerca! Chiudi i peccoli!» «Dissi, quello è l'uomo che possiede questo ranch e scrive libri!» «Come sta, signor Endicott?» gli chiesi. «Salve», disse. «Che fate lassù?» «Stiamo scappando!» E lui: «Buona fortuna, ma badate di tornare prima che faccia buio.» «Ma questa è una fuga vera!» dissi io. E allora lui e sua moglie risero. «Va bene», rispose. «Buona fortuna lo stesso, ma attenti che gli orsi e i leoni di montagna non vi assalgano quando fa buio.» Poi cavalcarono via ridendo come divertiti, ma avrei preferito che non avessero detto quelle cose sugli orsi e i leoni di montagna. Dopo aver girato attorno alla collina trovai un sentiero, andammo molto più in fretta. Charlie non aveva più i segni d'attacco e cominciò a ridere, a parlare di miniere d'oro. Il problema era il piccolo Albert. Era grande quasi quanto me, vedete, continuo a chiamarlo piccolo Albert, ma lui intanto è cresciuto. Era così pesante che non potevo andare veloce come Joe e Charlie. Non avevo più fiato, così gli dissi che dovevamo portarlo a turno. Mi risposero che non volevano. Allora gli dissi che me ne andavo e loro si sarebbero persi e gli orsi e i leoni di montagna l'avrebbero mangiati. A Charlie sembrava che gli stesse per prendere un attacco lì per lì e Joey disse: «Dallo a me!» Dopodiché lo portammo a turno. Continuammo a salire sulla montagna, forse non c'era nessuna miniera, ma potevamo arrivare in cima e trovarla se non avessimo perso il sentiero e se non fosse venuto buio e se il piccolo Albert non ci avesse stancato. Molti deboli hanno paura del buio e Joey disse che stava per venirgli un attacco, ma non gli venne. Non ho mai visto un ragazzo così sfortunato. Non poteva mai avere un attacco quando voleva. Certi deboli possono avere attacchi rapidi come un lampo. A furia di camminare si fece proprio nero ed eravamo affamati e non avevamo fuoco. Vedete, i deboli non hanno permesso di portare fiammiferi e non potevamo fare altro che tremare. Non avevamo mai pensato di poter essere affamati. Vedete, i deboli hanno sempre il mangiare pronto e per questo è meglio essere un debole che guadagnarsi la vita nel mondo. E peggio di tutto era il silenzio. C'era solo una cosa peggiore ed erano i rumori. C'erano tutti i tipi di rumori, in mezzo pause, di silenzio. Suppongo che fossero dei conigli, ma facevano rumore come animali selvaggi, sapete? Crunch, crunch, boom, trac, trac, proprio così. Prima ebbe un attacco Charlie, uno vero e poi anche Joey, uno terribile. Gli attacchi non mi preoccupano quando sono a casa con tutti attorno, ma in mezzo a un bosco, di notte, al buio, è diverso. Datemi retta, non andate mai a caccia di miniere d'oro con epilettici, anche se non sono gravi. Non avevo mai passato una notte così terrificante. Joey e Charlie, quando non avevano attacchi veri, facevano finta. E nel buio anche i tremiti di freddo sembravano attacchi. Io tremavo così forte che credevo di avere gli attacchi pure io. E il piccolo Albert, con niente da mangiare, sbavava a tutto spiano. Non l'avevamo mai visto così. Il suo occhio sinistro girava talmente tanto che credevo gli cascasse. Non lo vedevo, ma lo capivo dai movimenti che faceva. E Joey stava sdraiato e imprecava, mentre Charlie piangeva e voleva tornare a casa. Non morimmo e la mattina dopo tornammo indietro per la stessa strada da cui eravamo venuti. E il piccolo Albert si era fatto terribilmente pesante. Il dottor Wilson era arrabbiato come più non poteva e disse che ero il peggior debole dell'ospedale insieme a Joey e Charlie. Ma Miss Stryker, che era allora l'infermiera nel reparto idioti, mi abbracciò e pianse. Era così contenta che ero tornato. Pensai subito che forse la sposavo. Ma solo un mese dopo si sposò con l'idraulico che era venuto dalla città per aggiustare le grondaie della nuova infermeria. E il piccolo Albert non girò più l'occhio per 2 giorni, tanto era stanco. La prossima volta che scappo vado direttamente sulla montagna, ma non mi porto epilettici appresso, non guariscono mai, quando hanno paura o si eccitano gli vengono certi attacchi che sono peggio di una banda. Ma mi porto il piccolo Albert, chissà perché non posso stare senza di lui. E comunque non me ne vado, meglio il reparto idioti delle miniere d'oro e ho sentito che sta per arrivare una nuova infermiera. Poi il piccolo Albert è più grande di me ora.